10 ce ne sono. E che c'è su 10? Avanti 10, attenzione canale 10, attenzione, ecco 10, ce ne sono, Q10, avanti 10, CQ10, chi c'è su 10, c'è qualcuno? No, per due già vanno bene. Hola, hola. Ma c'è qualcuno qua? CQ10? Hola. Ascolti, lì sta facendo troppo macello, eh. Cosa vuole che venga lì lo prenda a sculacciarmi? Ciao Natale, buonasera, ben sentito. No, sto provando le mie BP4. Mi interrompo, capo. Mi sembra che vada bene. Allora. Così, senza la modifica. E così con la modifica, capo. Prego. Greco! Natali! Greco! Allora! Ma mi senti Luca? Oh Luca, mi senti? Ehi, Massimiliano, scusa, stavo parlando. In verticale, K, stavo provando le mie BP4 su questo apparato, K. No, non va bene, è troppo brutto. Troppo brutto, infatti. Aspetta, ma se va bene così senza la modifica? Così è meglio. Dimmi una cosa, questa radio come sta andando? Hola, 1, 2, 3, prova. Bene, bene. Ok, va bene. Ascolta, una prova e se cambi il radio possiamo fare una prova in FM, bimbomba. Saluto a tutti, non so chi ci sia, sono stato zitto. Cambiamo, spostiamoci il canale allora. Gatta, dimmi tu dove devo andare. Ah, dove vuoi tu? Uguale, per me è uguale, non c'è problema. Ma facciamo la 20. K Brioscia, 1-2-3, 1-2-3. Allora, Massimiliano, se ascolti qua, questo è il suo mic originale, diciamo così, dai, vedi un po', mettiamo un po' di ecco, ok, vedi un po' com'è che va, diamo un po' di suspense, ok, vedi un po', Massimiliano, se ascolti qua. Allora, Lu, ti spiego, a mio orecchio, attenzione. Quel microfono secondo me, così chiacchierando senza eco va bene, però con l'eco non va bene perché c'ha molti acuti. Ma perché è amplificato questo? Questo è amplificato, aspetta ti metto quello avete messo? Allora, questo è il classico, quello che ti danno, il CRT520, Massimiliano. Questo è il CRT520, vedi come va questo K. Rimane sempre leggermente un po' acuto, non ce l'hai un Midland classico normale, un CTE? No, ho le mie MP4. Troppi acuti? Hai un bel acuta come radio. Aspetta. Allora, vedi un po' se abbassando un po' migliora o che cosa? No, abbassando peggiori la modulazione. Peggiora addirittura. Adesso è a 7 il Mikey Gain, vedi un po'. Prova ad alzarlo a manetta. È così a manetta, però aspetta che vediamo un po' staccando. Adesso sono staccato. Non so se cambia. Allora, secondo me il Mikey lo devi lasciare al massimo lui. In poche parole ti robustisce un po' la modulazione, mi hai capito? Ah, sì, che lo devo lasciare al massimo. E via. Ma no, non ne ho altri microfoni da provare. Cioè, ce li ho un paio, ma li devo fare le connessioni, capito? Questi li ho presi, ho messo e ho visto che avevano le stesse connessioni. E allora le mie BP4 è peggio, a chi già sa fate dire da tamburlana. Ma con la radio modificata così devi usare microfoni palmari. L'amplificato non è che vada molto bene con la radio modificata, capito? Sì, oppure quelli da tavolo però senza amplificazione, K. Tutto bene, K. No, già va bene, il MIP ce l'ha accolto, allora vediamo un po' se qua funziona il MIP, guarda se c'è il MIP qua, Lu. Eia, aspetta che aumento, è così qua. Ok. Allora la modulazione non cambia, Massimiliano, guarda, da attaccato così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, staccato così, 1, 2, 3, 1, 2, 3, niente? No, quando attacchi aumenta il segnale, la modulazione si robustisce un po', ma un'idea. Aspetta, Lu, scusa se adesso ti attacco l'eco, vediamo un po' se va, è giusto per provare se va tutto bene. Eia, fai. Guarda, funziona l'eco, 1, 2, 3, prova. Eia, alla perfezione. Ok, va bene, quindi stacchiamo il MIP, stacchiamo l'eco e va bene così, dai. Riprova, Lu. Eia, guarda a proposito, che me ne sta entrando un altro di questo. Capito? Spero un po' se interessa qualcuno, Massimiliano. È uguale a questo, solo che è normale, non è modificato, però è in ottime condizioni. Se interessa qualcuno, fammi sapere. Ok, va bene, se sento qualcosa già ti avviso subito. Che ragazzi, non entra nessuno oggi. Vabbè. Ascolta, quello lì cos'è? 5 bande o 6? Questo è 6. Ok, va bene. Abbiamo fatto solo la modifica del corso e basta. E il resto l'hanno lasciato invariato. Ah, ok. Ascolta, l'eco lì da dove lo regoli? Dal pomello calibrante. Beh, adesso è al massimo, adesso è a 5, a metà. Non so se si sente. No, a 5 non sente nulla. No, vero. Adesso a 6 inizia a sentirsi un po'. Sì, leggerissimo però. Allora, adesso al massimo. Al massimo lo devi lasciare, E magari buco l'ha regolato da dentro anche. No, da dentro le devo abbassare il coso, il parlascolta da dentro, perché fischia troppo se aumento col microfono amplificato. Con questo no, con questo c'è il macchin al massimo appunto, però e non fa niente. Però con l'altro basta che vado oltre il 4 e fa rientro, capito? Fischia. E allora lo devo abbassare da dentro, dalla scheda dell'eco. No, vabbè, non è la scheda dell'eco, guarda che ci deve essere un trimmer tutto nero, non è attaccato alla scheda sicuramente, capito? lo puoi un pochettino aumentare, diminuire, come vuoi tu. Ma l'ascolto è separato. E con i microfoni amplificati, queste radio modificate così, non è che vado molto bene. Dai lui, ti lascio, magari non so se riprendo un po' il flor, mi devo fare per forza una doccia, che ho ancora alcune volte di clavaglio. Ok? Poi ci aggiorniamo gli arusai. Sì, va bene, a dopo Massimiliano, dai, lascia acceso qua. Capa Briosa, ciao ciao. Ciao ciao.